Respiro. Strade invase da montagne di rifiuti, cittadini che si improvvisano nei turbini e danno fuoco alla spazzatura. Sono le cartoline dalla campagna degli ultimi giorni, ma bruciare rifiuti è molto pericoloso per la salute umana e per quella animale. Sviluppa inquinanti come le diossine, sostanze tossiche e cancerogene. Lo dimostrano ampiamente gli studi di cui ci parla Leopoldo Iannuzzi, dirigente di ricerca dell'ISPAM CNR di Napoli, in questa intervista di Raffaella Calandra. Le diossine non esistono in natura, si formano per combustione di materiale plastico in presenza di cloro. E lei sa che il cloro è presente nel sale da cucina, e il sale da cucina è cloruro di sodio. La plastica è presente dappertutto, quindi nel sacchetto c'è proprio una sintesi di tutto quello che serve per produrre le diossine in seguito alla combustione, cioè solo bruciando la spazzatura, il famoso sacchetto, si produce diossina. Ecco, voi avete condotto due studi. Quali sono stati i risultati di questi studi? In un primo studio ci hanno fatto recapitare il campione di sangue di pecore in cui erano state trovate tasse di diossina relativamente basse, comunque sufficienti per far scattare il sequestro giudiziario. Questo allevamento comunque abbiamo trovato una fragilità cromosomica che era 4 volte quella del controllo che noi abbiamo fatto, ovviamente facendo gli stessi test citogenetici su pecore di controllo, cioè allevate in zone non a rischio. Poi, nel secondo studio, che è stato molto più completo perché ha riguardato quasi 100 animali, abbiamo trovato che questa fragilità cromosomica era da 8 a quello a 31 picogrammi, a 39 picogrammi a 14 volte il controllo. Questo che cosa fa denotare? Fa denotare che il genoma di questi animali che vivono in queste regioni è potenzialmente esposto a mutazioni. E non peraltro, in uno di questi allevamenti sono morti più di 1000 animali. In questo allevamento io proprio ho fotografato diversi feti anormali, mostri proprio, ha capito? E lo stesso allevatore è morto 2 settimane fa per cancro. I nostri studi sono datati 2004 e 2006, noi siamo fermi come ricerche dall'inizio del 2006 perché nessuno ci vuole più finanziare le ricerche. E perché nessuno vuole finanziare? Lei dovrebbe capirlo. Il Comune di Acerra aveva approvato e finanziato un programma triennale, quindi che doveva finire nel 2007. Dopo il primo anno, cioè parlo del 2005, è arrivato a fine 2005, nonostante che noi abbiamo presentato dei risultati, credo, ottimi e pubblicati su una rivista internazionale, lei può andare a vedere, se la rivista si chiama Mutagenesis, per problemi vari che ancora non ho capito, il Comune ha deciso di non finanziare più la ricerca e quindi noi siamo fermi. No, non credo che sia un fatto di camorra in questo fatto, non credo che ci sia un fatto di camorra, è che evidentemente queste ricerche danno fastidio, chissà, allarmano. E con questa denuncia ci lasciamo, ringraziamo Raffaella Calandra per l'intervista, Leopoldo Iannuzzi, da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.